You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare non a vanvera contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Benvenuti da Valentina Furlanetto, buon pomeriggio a tutti, benvenuti nella nostra trasmissione che prende spunto da questo film Indovina chi viene a cena, un film del 1967, un'epoca in cui c'erano pochissimi stranieri in Italia e infatti il film è la scusa ufficiale per parlare di pregiudizi razziali, integrazione fra culture, tutte cose che noi pensiamo si possano superare, come a tavola talvolta superiamo certe nostre avversioni. Insomma, cucina come nella società e nella vita i gusti cambiano. Parliamo quindi di cucina e ricette per raccontare i nuovi italiani nati all'estero ma da decenni in Italia o magari nati in Italia da genitori stranieri. Stasera a cena a Radio 24 abbiamo invitato un vero e proprio chef e un nuovo italiano. Buon pomeriggio a Mario Pechini. Buongiorno a tutti, eccomi qua. Sono il pasticcere nella vita quotidiana. Un capo pasticcere, giusto, di uno dei ristoranti più famosi della città di Milano, un pluristellato, parliamo del luogo di Aimo e Nadia. Sì, esattamente, il luogo di Aimo e Nadia che si trova appunto a Milano. Uno dei ristoranti, diciamo, dove io ho iniziato i miei primi passi a capire esattamente cosa significava cucinare o esattamente pasticciare, come intendo io, un vero e proprio ristorante di questo livello comunque. Sì, un ristorante di alto livello e quindi è veramente un onore, credo, essere stato richiamato dove aveva iniziato anni fa come stagista. Ma stiamo parlando di lei come una persona che ha una lunga esperienza, in realtà è molto giovane. Quanti anni ha Mario? Da poco 20. Ho fatti 26 anni, quindi sì, giovanissimo. Un giovanissimo capo pasticcere di origini albanesi, no? Lei è nato a Durazzo. Io sono nato, cioè la mia infanzia è iniziata lì fino ai 13 anni, dopodiché mi sono trasferito in Italia per avere una vera e propria professione, una cultura molto aperta, cioè 360 gradi. 13 anni quindi in Albania e 13 anni in Italia, metà vita da una parte, metà vita dall'altra, no? 13 anni fa quando è arrivato, immagino che le aspirazioni sue non arrivassero a immaginare di diventare capo pasticcere di uno dei ristoranti più famosi della città. Noi di solito iniziamo la puntata parlando dei piatti di oggi, e oggi parliamo di un dolce, anzi di due dolci, così? Sì, ho intenzione dare due mie bellissime ricette, più che altro perché una ricetta è un ricordo che porto sempre dalla mia infanzia, perché io sono un pasticcere, ma non sono un pasticcere, sai, goloso proprio che va pazzo per i dolci, però una cosa mi ha sempre affascinato. La sfoglia, parliamo di una delle basi fondamentali di una pasticceria. I mille foglie, no? Che è, a dire la verità, un dolce che spaventa molto le persone normali, perché appunto La sfoglia è difficile da fare, una buona sfoglia. Una buona sfoglia è veramente difficile, anche perché ci sono i metodi, ci sono i tempi di riposo, bisogna starle dietro come se fosse un bambino, sai, un bambino che si accudisce per arrivare al finale, e poi ci sta anche, ci deve essere anche la crema buona, ci deve essere una bella idea per andarla a sposare. Cioè, io ho pensato i fichi, è una ricotta candita. Questa Millefoglie, però, Mario, è un suo ricordo anche, mi diceva, no? Nasce da un ricordo. Sì, nasce perché io da bambino andavo in una pasticceria, mi ricordo molto bene, vicino a casa mia. A Durazzo, quindi? Durazzo, dove sono nato io, è una città molto balneare. E quindi il clima lì è mediterraneo, quindi i gusti sono più o meno simili col bacino del Mediterraneo, quindi che comprende la Puglia, che comprende la Calabria, la Sicilia e ovviamente il Nord Africa. Quando andavo in questa pasticceria sentivo questo profumo della sfoglia che quando veniva tirato fuori dal forno, proprio il sentore della pasticceria che ti richiama, andavo apposta in quel posto solo per mangiare la Millefoglie che facevano loro, quindi era crema e sfoglia semplicemente. L'altra ricetta che oggi Mario Pechini ci regala è una ricetta anche questa che ci ricorda un pochino del sud, no? Sì, infatti l'altra ricetta che propongo oggi è un tiramisù fatto in una maniera, diciamo, molto rivisitata, in senso... Già nel nome? Sì, noi l'abbiamo chiamato perché è un dessert che abbiamo messo in carta al ristorante per i 150 anni dell'Unità dell'Italia e l'abbiamo chiamato tiramisù, a raggruppare, diciamo, all'unificazione dell'Italia, perché se pensiamo il tiramisù nasce esattamente in Veneto, cioè in Venezia il vero tiramisù, che poi man mano viene divulgato in tutto il mondo perché è famoso, ovunque si va all'estero. Noi l'abbiamo rivisitato un attimino sul gusto, rendendolo più leggero e mettendoci dei capri canditi, bergamotto, limone e una ricotta, cioè sono dei gusti che ti portano al sud. Sì, è anche singolare pensare a dei capri canditi un dolce. Sì, perché i nostri dolci, Valentina, sono dei dolci che contrastano molto con il salato, perché la pasticceria che noi intendiamo nel nostro ristorante, cioè la pasticceria del futuro, che dico anch'io, meno dolce possibile, anche perché in un fine pasto, un dessert talmente dolce, a volte non ci si riesce a mangiarlo del tutto. Stiamo parlando ovviamente di alta cucina, di dolci anche fatti con le verdure, così? Voi fate anche un menù proprio con tutti sì, i dolci? Nella casa dei dessert abbiamo sempre, in base alla stagione che giochiamo, adesso abbiamo in carta una pasta e verdure. Pasta e verdure, perché abbiamo dentro della carota candita, abbiamo del finocchietto, abbiamo sedano candito e abbiamo dei carciofi. Cioè, è una cosa molto particolare. Domani è Pasqua. Quale sarà la specialità del ristorante Aimo e Nadia per quanto riguarda i dolci? Qualcosa di particolare? E durante questo periodo stiamo appunto studiando un buonissimo dessert a base di piselli, quindi un biscotto a base di mandorle, una crema di limone, quindi giocando sempre con le verdure. Una contaminazione, cioè la cucina e pasticceria è una contaminazione per noi. Quanto influiscono le tue origini albanesi sui dolci che prepari? Come si coniugano con la tradizione culinaria italiana? La mia origine che porto sempre dietro è la mentalità, deve essere molto aperta, cioè la cucina, come dico io sempre, quando si lavora in questo settore nessuno è straniero, perché lavoriamo per ciò che abbiamo nel cuore, cioè la cucina, la pasticceria, perché è una passione. Avere la mentalità aperta aiuta molto. A dire il vero, ho dei ricordi vagamente lontani della mia infanzia, perché la cucina della mamma è sempre la cucina della mamma. Però sì, la maggior parte il gusto, il sapore, la maggior parte degli ingredienti li ho conosciuti qui in Italia, quindi mi sento quasi, a dire il vero, anche perché adottato dall'Italia per quanto riguarda questo punto culturale sulla gastronomia. Cioè, straight out of Diamond Stop. Yeah, guys. Man, I'm in the room. Hit the speakers, boom. Let's go, it's time to move. I got my brand new shoes. My Supras laced up tight. I'm feeling so damn fly. I got my hands up high. We getting fucked tonight. Don't miss, yeah, don't miss it. Go check this out to the front of the friend. It's only like 2 in the morning. We gonna dance till dawn. So fuck what everybody. Stiamo parlando con Mario Pecchini, capo pasticcere del luogo di Aimo e Nadia, ristorante pluristellato di Milano. C'è stata questa incursione di questa musica mentre parlavamo di gusti, contaminazioni, cibo. Mario, ci vuoi spiegare perché questa musica in particolare? Questa musica in particolare perché io ho, in verità, oltre ad essere un chef pasticcere, nel mio tempo libero il mio hobby è la produzione musicale, perché è una vita parallela che io faccio con la pasticceria. Quindi questa musica è prodotta da lei? Sì, questa è assolutamente prodotta da me, con varie collaborazioni con altri ragazzi, che le collaborazioni aiutano molto, come in cucina. Una passione, diciamo, produrre musica e creare proprio, perché è come creare un dessert da zero, la stessa cosa la musica. Da quello che mi diceva in regia Paolo Corleoni, è anche buona musica, quindi complimenti, probabilmente una creatività molto forte che si esprime in due situazioni diverse, come lei spiegava. Qual è dominante? La più dominante è la pasticceria, perché ci passo più tempo. La musica è un hobby, ma rimane, cerco sempre di arrivare, di fare le cose sempre con l'anima, cioè, quindi ci metto tutta la mia parte, buona volontà, per arrivare ad avere un prodotto buono che sia anche piacevole alla gente, perché è una soddisfazione anche. E suo padre, ho letto, era magazziniere, sua madre sarta, quindi non ha in famiglia una tradizione musicale o culinaria, artistica alla quale si è ispirato? Sì, infatti io, quando ero piccolo, cioè avevo l'età sui 8-7 anni, il mio nonno era un ex pescatore, quindi si andava in barca, e la passione è nata anche da lì, che andavo in barca con mio nonno e si pescava, quindi pescare già da grande non sapevo che dovevo andare a fare l'alberghiero, però già mi piaceva cucinare qualcosa che avevo pescato, e quindi già lì man mano che si è arrivato a diventare grande, ho iniziato a scegliere l'alberghiero perché amavo cucinare, cioè, dopo di lì i miei primi passi sono iniziati proprio dal luogo di Aimo e Nadia, quindi da lì i ragazzi Fabio e Alessandro mi fa: Mario, secondo me dovresti fare il pasticcere. Poi ero poco convinto a fare il pasticcere, perché ho detto: io non so niente di pasticceria, assolutamente niente. Poi man mano che ho messo le mani nella pratica, a fare la crema pasticcera, a fare una mousse al cioccolato, poi mi ci sono veramente immerso dentro in questo settore. E poi da lì ho iniziato a intraprendere l'istituto a Chioggia di arti culinari, Etual. E poi dopo da lì ho fatto un'altra piccola esperienza di 2 anni presso una pasticceria abbastanza nota di Roberto Rinaldini, quindi è un grande pasticcere per me, che dove ho anche imparato tanto, visto tanto, e dopo di lì ho avuto, diciamo, la chiamata per andare a lavorare nel posto dove avevo iniziato. Da Aimo e Nadia. In cucina esistono pregiudizi? È mai stato vittima di pregiudizi perché è straniero di origine? Sinceramente, per quanto riguarda me, no, perché essendo cresciuto qui la metà della vita, quindi sono visto più che altro come fossi un italiano. E lei si sente italiano? Io mi sento italiano anche perché la maggior parte che so oggi dovuto all'Italia, quindi mi sento italiano, sì, e quindi rimango sempre di origini albanesi e non lo rinnego a proprio, cioè, per niente questo. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Quali sono le qualità che ci vogliono per resistere in cucina? È un lavoro molto faticoso, no? Sì, è un lavoro abbastanza faticoso anche perché ci vuole tanta pazienza. Tanta pazienza e, come dico io, i tre ingredienti fondamentali sono volontà, amore, cioè la passione verso quello che si andrà a fare, e l'impegno, cioè. I tre ingredienti essenziali sono questi. È rimasto un legame con il paese d'origine? È tornato? Torna spesso? Torno non tutti gli anni, ma torno quando sia possibile, perché anche perché il mese di chiusura, che è agosto, cerco sempre di aggiornarmi nel campo della pasticceria, andare, non so, all'estero a fare. Anche se sono uno chef di pasticceria, non vuol dire che mi devo fermare, cioè mai fermarsi, anche perché questo è un campo che si aggiorna sempre in giorno, quindi o si sta al passo o si sta fermi, quindi cerco sempre di andare all'estero, vedere altre cucine francesi, londinesi, cioè tipo l'anno scorso sono stato a Parigi in un ristorante 3 stelle Michelin, quindi entrare lì dentro, avere tutta un'altra mentalità, quindi cercare sempre di studiare cose nuove. Per la sua esperienza, aspiranti chef o chef giovani, ci sono molti ragazzi di origine straniera, nuovi italiani come lei? Sì, in questo campo sì, ci sono tanti ragazzi stranieri che amano questo mestiere, e a volte è difficile perché non conoscendo l'italiano è molto... molto complessivo, cioè molto difficile. La lingua italiana? Sì, la lingua italiana è molto difficile da... Ho letto che lei ha avuto qualche difficoltà all'inizio, proprio per questo, per una questione linguistica. Per me la parte linguistica è stata un po' difficile, anche perché io, classico ragazzo, che sono ambizioso, cioè prendo una cosa di mira e cerco di portarla fino al termine. Cioè. Lei ha la cittadinanza italiana? Io, adesso, cioè, è in corso la cittadinanza. Non ancora. Senta, prima di dare le sue ricette, queste due meravigliose ricette che ci regala Mario Pecchini e il luogo di Aimo e Nadia, volevo capire da lei qual è il dolce che non le piace, visto che è un pasticcere. Il dolce che non mi piace? Il dolce che non mi piace è difficile dire, perché assaggio sempre tutto, ma una cosa che non mi piace... le torte da forno che sono troppo, tipo le crostate con le marmellate, a volte quelle non riesco a mangiarle perché mi sento troppo zuccherate, secondo il mio punto di vista. Forse lei ama di più i gusti salati, quindi è in grado anche di sperimentare delle cose nuove? Sì, amo, diciamo, il contrasto tra dolci e salati, infatti quasi tutti i nostri dolci giocano... su questo contrasto, quel contesto lì. Prima della chiusura, adesso diamo le ricette di Mario Pecchini. Tiramisù. Ingredienti per 4 persone. Per il biscotto: 20 g di zucchero, 20 g di farina 00, 5 g di fecola, 25 g di albume, 13 g di tuorlo. Per la crema alla ricotta: 20 g di zucchero, 10 g di maizena, poca scorza di limone, 55 g di latte, 20 g di acqua. Per la crema chantilly allo yogurt e mascarpone: 70 g di mascarpone fresco, 70 g di yogurt greco, 80 g di panna fresca, 20 di zucchero semolato, 20 g di tuorlo, mezzo baccello di vaniglia, 2 g di colla di pesce, un terzo di un foglio. Per la cialda: 100 g di zucchero semolato, 7 g di burro a temperatura ambiente, 10 g di cacao. Per i capperi: 20 g di capperi di Pantelleria dissalati, 10 g di miele di erica, 10 g di acqua. Per la composizione, 2 caffè espressi, 10 g di bergamotto candito tagliato a cubetti piccoli, alcune foglioline di menta. Per il biscotto, montare gli albumi con lo zucchero, aggiungere i tuorli, la farina e la fecola e lavorare delicatamente fino a ottenere un composto omogeneo. Stendere su una teglia coperta di carta da forno con uno spessore di circa 5 mm. Infornare in forno preriscaldato a 180 gradi e cuocere per 5 minuti. Far raffreddare. Ricavare 4 dischi coppando con anello cilindrico di 4 cm di diametro. Per la crema chantilly allo yogurt e mascarpone. In un tegame, unire panna, zucchero e tuorlo e portarli a una temperatura di 65 gradi. Aggiungere la colla di pesce già ammorbidita in acqua e ben strizzata e farla sciogliere. Lasciar raffreddare. Aggiungere lo yogurt, il mascarpone e la vaniglia e mescolare delicatamente. Conservare in frigorifero. Per la crema alla ricotta, scaldare in un tegame il latte con lo zucchero e la scorza di limone. Aggiungere la maizena e l'acqua e far addensare a calore moderato. Lasciar raffreddare, quindi unire la ricotta e lavorare l'impasto per 2 minuti con una frusta a bassa velocità. Per la cialda, portare lo zucchero a 140 gradi, togliere dal fuoco, unire il cacao, farlo sciogliere, quindi aggiungere il burro amalgamando bene il tutto. Far raffreddare stendendo su un silpat o carta da forno, quindi polverizzare in un frullatore. Disporre 4 anelli di metallo sul silpat e coprire la base degli anelli con uno strato sottile di cialda polverizzata. Scaldare leggermente in forno, far raffreddare e sformare le 4 cialde. Per i capperi, in un tegame unire acqua, miele e i capperi. Portare a 45 gradi e cuocere mantenendo costante la temperatura per un'ora. Per la composizione, montare il dolce disponendo nel seguente ordine: il biscotto bagnato con il caffè. Su ogni biscotto disporre distanziati tra loro 4 capperi. Coprire il biscotto con la crema allo yogurt e mascarpone, la crema alla ricotta, altri 3 capperi e 2 foglioline di menta. Al centro qualche cubetto di bergamotto. Completare con la cialda di zucchero. Mille foglie con fichi caramellati, ricotta candita e lavanda. Ingredienti per 6 persone. Per il pastello, 175 g di farina 00, 2 g di miele, 80 g di acqua. Per il panetto, 250 g di burro, 70 g di farina, 1 g di sale. Per i fichi caramellati, 250 g di fichi freschi neri non troppo maturi, 75 g di zucchero, 3 foglie di menta, 3 foglie di verbena, la scorza di mezzo limone. Per la ricotta candita, 200 g di ricotta di pecora, 150 g di zucchero, 500 g di panna fresca, 2 g di sale, mezzo limone. Per la lavanda, 10 g di fiori di lavanda essiccati, 70 g di zucchero, 20 g d'acqua. Per il panetto, lavorare in planetaria il burro insieme alla farina e al sale. Posizionare l'impasto ottenuto tra 2 fogli di carta da forno e, aiutandosi con un mattarello, formare un parallelepipedo di base 20 x 10 cm e 2 cm di spessore. Far riposare in frigorifero 20 minuti. Per il pastello, lavorare in planetaria la farina, il miele e l'acqua fino a ottenere un composto morbido e omogeneo. Far riposare coperto e in luogo fresco per 30 minuti. Stendere il pastello in modo da ottenere un rettangolo di circa 40 x 60 cm e mezzo centimetro di spessore. Al centro posizionare il panetto e coprirlo sovrapponendo l'uno all'altro i 4 lembi del pastello. Con il mattarello stendere l'impasto fino a ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro, facendo attenzione a mantenere la forma rettangolare. Piegare la pasta in 3, sovrapponendo i 2 lembi più lunghi. ripetere 3 volte stesura e piegatura alternando il verso in cui si stende la pasta, avendo cura ad ogni giro di far riposare 20 minuti in frigorifero l'impasto. Stendere la sfoglia con uno spessore di 5 mm e tagliarla in cerchi di 5 cm di diametro in modo da ottenere 18 dischi. Cuocere in forno a 160 gradi per 20-25 minuti. Per i fichi caramellati, cospargere il fondo di un'ampia casseruola con metà dello zucchero e adagiarvi i fichi interi. Cospargere i fichi con l'altra metà dello zucchero, le scorze del limone, la menta e la verbena. Cuocere a fuoco moderato per un'ora circa. Per la ricotta candita, in un pentolino a fuoco moderato caramellare lo zucchero fino ad ottenere un bel colore biondo, circa 160 gradi. Scaldare metà della panna a 90 gradi, aggiungerla allo zucchero e, mescolando, continuare a cottura fino a ottenere un composto denso e omogeneo, come una moue. Togliere dal fuoco, aggiungere il sale e la scorza grattugiata del limone e lasciare raffreddare 30 minuti. Aggiungere il resto della panna e mescolare. Far raffreddare. Tagliare la ricotta a pezzi grandi, porla in una bacinella e ricoprirla con la moue. Dopodiché riporre in frigo per 8 ore. Scolarla e tagliarla in pezzi più piccoli. Per la lavanda, in un pentolino scaldare l'acqua e lo zucchero a 115 gradi. Aggiungere i fiori di lavanda e mescolare finché lo zucchero inizia ad avere un aspetto granuloso, sabbioso. Togliere dal fuoco, stendere su un foglio di carta da forno e lasciar raffreddare 15 minuti. Frullarlo con un mixer fino a ottenere una polvere molto fine. Per la composizione, disporre nel seguente ordine: uno strato di sfoglia, uno di fichi, uno di ricotta e ripetere di nuovo con la sfoglia, i fichi, la ricotta e per finire uno strato di sfoglia. In ultimo, cospargere con lo zucchero profumato alla lavanda. Torniamo a parlare con voi dopo queste splendide ricette che ci ha regalato il luogo di Aimo e Nadia, il capo pasticcere Mario Pecchini. Grazie, grazie molte per essere stato con noi questo pomeriggio. La puntata termina qui. Io ringrazio, oltre che il nostro ospite e il ristorante, in regia Paolo Corleoni. Mi trovate anche su Twitter @valfurla. Trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti e ricordate, in cucina come nella vita, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love.